Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Così è scritto nella legge, nel libro del Levitico, al capitolo 18, versetto 22. Non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna. È cosa abominevole. Queste sono parole che ha detto Dio. Quindi, quello che pensa Dio sull'omosessualità, noi lo conosciamo. Noi sappiamo che agli occhi di Dio l'omosessualità è peccato. O meglio, è cosa abominevole. Ora, qualcuno dirà sicuramente, ma tu stai citando la legge di Mosè. Noi non siamo più sotto la legge, ma siamo sotto la grazia. È vero, siamo sotto la grazia e non sotto la legge. Ma la legge è buona se uno la usa legittimamente. Ho citato delle parole scritte dall'Apostolo Paolo, che sono scritte nella prima epistola a Timoteo. Capitolo 1 di Prima Timoteo, leggerò alcuni versetti dal versetto 8. Or noi sappiamo che la legge è buona se uno l'usa legittimamente, riconoscendo che la legge è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli, per gli empi e i peccatori, per gli scellerati e gli irreligiosi, per i percuotitori di padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti, per i ladri d'uomini, per i bugiardi, per gli spergiuri e per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina secondo l'Evangelo della gloria del beato Iddio che mi è stato affidato. Quindi la legge è fatta non per il giusto, ma per, e abbiamo visto, per chi appunto è fatta, e tra coloro per i quali è fatta ci sono pure i sodomiti. I sodomiti sono gli omosessuali, o come oggi vengono definiti, gay. Sodomiti viene da Sodoma. Sodoma era una città malvagia dove venivano gli uomini, diciamo, seguivano vizi contro natura. Non solo vizi contro natura, ma anche la fornicazione. Comunque, Sodoma è ricordata per lo più per il peccato di sodomia, per il peccato appunto dell'omosessualità, che è un peccato contro natura. Contro natura! Dobbiamo ribadirlo con forza. Paolo infatti dice ai santi di Roma queste parole: perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami, poiché le loro femmine hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura, e similmente anche i maschi, lasciando l'uso naturale della donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini cose turpie, ricevendo in loro stessi la condegna mercede del proprio traviamento. Vedete dunque? praticamente qui l'omosessualità è chiamato appunto qualcosa di contro natura. Infatti vedete che praticamente parla qui dei maschi, che dice lasciando l'uso naturale della donna si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini cose turpi. Quindi vedete, esiste l'uso naturale della donna da parte dell'uomo. Naturalmente questo è quello che avviene quando l'uomo lascia suo padre e sua madre e si unisce a sua moglie e i due diventano una sola carne. Allora lì ecco che l'uomo, il maschio, ha il cioè usa in maniera naturale la donna, perché è naturale, è chiamato l'uso naturale della donna. Ma gli omosessuali, lasciando l'uso naturale della donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini cose turpi. Notate come sono chiamati gli atti omosessuali, cose turpi. L'omosessualità naturalmente riguarda anche le donne, perché vedete come c'è scritto che le loro femmine hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura. Sì, perché l'omosessualità non è diffusa solo tra i maschi, ma anche tra le donne. Allora, come potete vedere, la legge è buona. La legge è buona se uno la usa legittimamente. E noi la legge la usiamo, infatti, per dimostrare ciò che è peccato agli occhi di Dio. E così naturalmente facevano gli apostoli. Noi in questo seguiamo l'esempio degli apostoli. Ora, che cos'è il peccato? Perché naturalmente bisogna spiegare cos'è il peccato secondo quello che dice la Sacra Scrittura, perché molti non lo sanno. Sentono la parola peccato. Bisogna dire che non si sente più così tanto la parola peccato, comunque quando viene menzionata la parola peccato molti la sentono ma non sanno di cosa si tratta, cos'è il peccato. Ce lo dice Giovanni, il discepolo che Gesù amava, nella sua prima epistola, al capitolo 3, dice quanto segue, ascoltate, perché è molto importante quello che dice Giovanni per capire cos'è il peccato. Allora dice capitolo 3 versetto 4: chi fa il peccato commette una violazione della legge. Il peccato è la violazione della legge. Ecco dunque che cos'è il peccato. È la violazione della legge di Dio. Ora, la legge di Dio che cosa dice? Chiamata anche la legge di Mosè. Dice, non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole. Dunque c'è un divieto, una proibizione. La violazione di questa proibizione, di questo comandamento, è peccato. Quindi l'omosessualità è peccato. Ora, essendo peccato, non è una cosa gradita a Dio, perché la legge che viene violata è la legge di Dio, il legislatore è Dio. Dunque Dio non si può compiacere in coloro che violano la sua legge. E difatti Dio non si compiace negli omosessuali. La Sacra Scrittura dice che Dio odia tutti gli operatori di iniquità e per certo gli omosessuali sono operatori di iniquità, sono dei peccatori. sono dei peccatori come lo sono quelli che praticano la stregoneria, come quelli che praticano lo spiritismo, come sono peccatori gli adulteri, i fornicatori, i ladri, gli omicidi, gli idolatri, i bestemmiatori, gli avari, gli ingiusti. E allora gli omosessuali fanno parte di quella categoria di uomini che la scrittura definisce peccatori o empi. Quindi gli omosessuali non sono annoverati tra i giusti, tra i buoni, nella maniera più assoluta. Gli omosessuali sono dei peccatori. Peccatori perché violano la legge di Dio. Ora, in quanto violatori, trasgressori della legge di Dio, essi sono nemici di Dio, per forza di cose, perché violano la legge di Dio. E dunque l'ira di Dio è sopra di loro. Infatti, come vi ho letto poco fa dall'epistola di Paolo ai Santi di Roma, dice così: ricevendo in loro stessi la condegna mercede del proprio traviamento, cioè gli omosessuali ricevono nel loro corpo la condegna mercede del proprio traviamento, perché si tratta di un traviamento quello a cui essi si abbandonano, però ricevono da Dio il salario della loro condotta iniqua. Voi sapete, per esempio, che molti omosessuali hanno contratto l'AIDS e molti di loro sono morti a motivo dell'AIDS. Alcuni non considerano la giustizia di Dio, non considerano la santità di Dio, pensano che Dio rimanga indifferente davanti alla malvagità degli uomini. Ascoltatemi, Dio non tollera l'iniquità, non la tollera la malvagità. E quindi non tollera neppure la malvagità a cui si abbandonano gli omosessuali. La terra è piena di malvagità. Tra questa malvagità c'è pure quella dell'omosessualità, costituita dall'omosessualità. Ripeto, non è il solo peccato che fa indignare il Dio, è uno dei peccati, ma dobbiamo dire che questo peccato in questi ultimi decenni viene molto pubblicizzato, viene molto promosso, un po' da tutti i media, radio, televisioni, giornali, perché ormai è diventata una, l'omosessualità è diventata una cosa normale, tra virgolette, per molti, anche per le stesse autorità. Infatti voi sapete che molti stati hanno adottato delle leggi a favore delle unioni civili ed anche dei matrimoni omosessuali. Aumentano sempre di più le nazioni che hanno una forma legislativa, una legislazione a favore degli omosessuali. Si sta diffondendo in tutto il mondo in una maniera spaventosa. sono poche le nazioni dove ancora le autorità, diciamo, sono contro l'omosessualità. Ora, in Italia è molto diffusa l'omosessualità, basta diciamo, considerare appunto quello che i media propongono, non importa quali media. E oramai l'omosessualità è accettata anche da molte chiese evangeliche. Considerate, ciò che è abominevole agli occhi di Dio è cosa gradita a tante chiese evangeliche, che infatti sono apertamente schierate a favore dei cosiddetti diritti della comunità omosessuale. Non si nascondono per niente, proprio aprono larga la loro bocca per dire che loro approvano l'omosessualità, che per loro è una forma di amore, per cui non bisogna condannare l'omosessualità, secondo queste chiese, in mano alla massoneria, lo voglio specificare per l'ennesima volta, queste chiese che sono a favore della libertà sessuale, perché una delle libertà che la massoneria promuove nel mondo è la libertà sessuale. E questo naturalmente va sottolineato, perché generalmente la massoneria ci tiene a specificare che essa è a favore della libertà religiosa, però meno a specificare che invece è a favore anche della libertà sessuale. Infatti queste chiese ormai approvano la dissolutezza ed approvano la anche la fornicazione e l'adulterio. Ora, la situazione è oltremodo drammatica, perché adesso le persone strane, tra virgolette, non sono più gli omosessuali, ma gli eterosessuali, cioè coloro che ritengono che la relazione carnale sia lecita soltanto tra un uomo e una donna. Specifichiamo: tra il marito e la moglie, naturalmente, perché noi non ammettiamo relazioni carnali, la scrittura non ammette relazioni carnali prima del matrimonio tra uomo e donna, sia chiaro questo. Quindi l'unico matrimonio valido agli occhi di Dio è quello tra un uomo e una donna. D'altronde Dio li fece maschio e femmina. Ricordatevelo sempre questo, che il Signore fece la donna per l'uomo. Non è che fece un altro uomo per l'uomo, no. Fece la donna, che è appunto un aiuto convenevole. Solo che ciò che è diritto, l'uomo malvagio lo perverte. Sapete che ci sono tanti che pervertono le diritte vie del Signore, perché le vie del Signore sono diritte. E quelli che pervertono le diritte vie del Signore sono figlioli del diavolo che è anche Satana, cioè l'avversario. Quindi che cosa sta avvenendo? Che sempre più chiese evangeliche accettano l'omosessualità e non la considerano affatto un peccato, e accettano i cosiddetti matrimoni omosessuali. E giustificano l'omosessualità prendendo dei versetti biblici. Ora qualcuno dirà, ma com'è possibile? Com'è possibile? Riescono persino a far dire alla Bibbia che l'omosessualità è una cosa buona? Sì, proprio così. Considerate questo, che oramai questi figli del diavolo che pervertono le diritte vie del Signore arrivano a dire, o meglio, a ipotizzare, certo, perché loro ci tengono a dire, non possiamo darlo con certezza assoluta questa informazione, ma comunque fanno un'ipotesi. È l'ipotesi che Gesù fosse omosessuale. Qualcuno dirà, ma veramente? Sì, veramente. E com'è possibile che arrivino a definire il santo, il giusto, colui che non ha conosciuto peccato, omosessuale? Perché questi sono figli del diavolo e vogliono fare i desideri del padre loro, che è bugiardo e padre della menzogna. Quindi prendono piacere nel dire menzogne, prendono piacere nel calunniare, sì, perché vi ricordo che diavolo significa calunniatore, prendono piacere nel calunniare, come il padre loro fa, Gesù Cristo, dicendo che Gesù era gay. Infatti adesso, no, è spuntato fuori il Gesù gay, che viene anche promosso durante i cosiddetti gay pride, queste sfilate, queste parate, dove appunto questi peccatori, diciamo, mostrano il loro cosiddetto orgoglio di essere gay. Allora, ma qualcuno sicuramente dirà, ma come fanno a sostenere o a ipotizzare che Gesù fosse anche lui gay? Ma come faranno? Ebbene, ve lo dico, perché li ho sentiti parlare a questi figli del diavolo. Praticamente dicono che questa ipotesi è basata su queste parole che dissero le sorelle di Lazzaro che mandarono a dire a Gesù quando Lazzaro era malato. Capitolo 11, versetto 3 di Giovanni. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. Ora, come si fa a ipotizzare, leggendo queste parole, come si fa a ipotizzare che Gesù fosse gay e che aveva una relazione omosessuale con Lazzaro? Perché c'è scritto che le sorelle di Lazzaro gli mandarono a dire: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. Colui che tu ami basta a questi figli del diavolo per calunniare il nostro Signore Salvatore, Gesù Cristo. Ma, vedete, il Dio nella sua sapienza ha voluto che fossero trascritte anche queste parole, versetto 5. Or Gesù amava Marta e sua sorella Lazzaro. Quindi non è che amava, intanto diciamo che non amava solo Lazzaro, amava anche le sorelle di Lazzaro. Quindi a questo punto che bisognerebbe dire qua? Che bisognerebbe ipotizzare? Razza di vipere! Disse bene Gesù: come potete dire cose buone essendo malvagi? voi siete malvagi, siete figli del diavolo, pieni di ogni frode, di ogni furberia. Ma vi assicuro che quando scenderete nelle fiamme dell'inferno avrete molto tempo per pensare a tutte le calunnie che avete proferito contro il Signore Gesù Cristo, tra cui anche questa, che lui fosse gay e che avesse una relazione omosessuale con Lazzaro. Ma poi non è finita mica qua, non è finita mica qua, perché questi figli del diavolo si appoggiano anche su queste altre parole scritte in Giovanni e che riguardano appunto la notte in cui Gesù fu tradito. Ascoltate, è scritto al capitolo 13, ora a tavola inclinato sul seno di Gesù stava uno dei discepoli, quello che Gesù amava. Ecco che quindi questi figli del diavolo che cosa sostengono? Ipotizzano che il fatto che ci sia scritto che questo discepolo era amato da Gesù, che poi è chiamato il discepolo che Gesù amava, in un altro posto, ma poi il fatto ci sia scritto che stava, che era inclinato sul seno di Gesù. Ecco, la prova su cui si basa la loro ipotesi diabolica, satanica. Allora, che cosa mi ha fatto pensare tutto ciò? Mi ha fatto pensare all'astuzia del diavolo. Come riesca a sedurre tante persone facendogli accettare, usando la Bibbia, delle cose che sono in abominio a Dio, però usando la Bibbia. Quindi hanno creato, diciamo, la comunità LGBT, ha creato un altro Gesù, uno dei tanti diversi Gesù che oramai pullulano, no? Diciamo, in questo mondo. Il Gesù gay, e questo Gesù gay, guardate che è sponsorizzato da tantissime chiese evangeliche. E vedrete che con il passare del tempo questa ipotesi verrà accettata sempre da più evangelici. Perché per la massoneria è di fondamentale importanza che l'omosessualità venga accettata come una cosa normale, al fine di distruggere la famiglia, la famiglia che Dio ha stabilito. In nome della libertà, voi sapete che uno dei principi della massoneria è la libertà. Ma quale libertà? La libertà secondo la carne, quella che viene condannata dalla Sacra Scrittura. Però, appunto, proprio perché la massoneria è satanica, è di natura satanica, è chiaro che sostiene ciò che è contrario alla volontà di Dio. E allora, stavo considerando in questi tempi, in questi ultimi giorni, devo dire, diciamo, questo attacco spudorato alla santità di Gesù Cristo, il nostro Signore, fatto usando la scrittura. Vedete quanto in fin dei conti sia facile prendere dei versetti scritti nella Bibbia, presenti nella Bibbia, per far dire alla Bibbia il contrario di quello che dice la Bibbia. Lo notate? Ma così è, diciamo, per tanti altri peccati. C'è per esempio chi sostiene, poi sto parlando delle chiese, che si possono dire menzogne in base a determinati versetti della Bibbia, o che i divorziati possono passare a seconde nozze, sempre basandosi su alcuni versetti della Bibbia, o anche che sia lecita la fornicazione, o che siano leciti i rapporti carnali prima del matrimonio. Anche questo avviene, sempre basandosi su alcuni versetti della Bibbia. Poi c'è anche chi sostiene che sia lecito uccidere, per esempio abortire, sempre in base a dei versetti che sono scritti nella Bibbia. O anche che sia lecito andare in guerra ad ammazzare il proprio prossimo, sempre usando dei versetti della Bibbia. E potrei proseguire con la lista di peccati, di comportamenti sconvenienti o comportamenti che sono in abominio a Dio, che vengono promossi usando dei versetti della Bibbia. Ma lo sapete che usando alcuni versetti della Bibbia, coloro che sostengono e insegnano la menzogna della reincarnazione dicono che Gesù insegnava la reincarnazione? Cioè, capite? Cioè, che cosa arrivano a dire? O che arrivano a dire anche che Gesù insegnava ai suoi discepoli che essi erano Dio. Perché Gesù era un maestro gnostico. Insegnava la gnosi segreta. Aveva un circoletto di discepoli, un ristretto circolo di discepoli a cui segretamente gli comunicava questa conoscenza segreta che poi si è tramandata nel corso dei millenni ed è arrivata fino a noi, dicono loro. E dove si trova questa conoscenza segreta se non nelle logge massoniche? Infatti è proprio lì. È proprio lì che viene appunto fomentata questa gnosi, perché la massoneria praticamente... l'essenza della massoneria è la gnosi, cioè quella cosiddetta conoscenza secondo cui l'uomo è Dio, ma non lo sa, lo deve conoscere, lo deve scoprire, capite? Ed ecco che il Gesù gnostico gli dice: conoscete voi stessi per conoscere Dio. Capite che cosa mettono in bocca a Gesù? E praticamente hanno creato pure quest'altro Gesù, che è un Gesù gnostico. Ma questo per farvi riflettere, fratelli nel Signore, sull'astuzia di cui sono pieni i figli del diavolo. E questo bisogna sempre ribadirlo. I figli del diavolo esistono perché esiste il diavolo. E sono pieni di ogni frode, di ogni furberia. Si inventano le cose più assurde contro il nostro Signore Gesù. Poco fa un fratello mi ha segnalato la notizia, appunto, che poi ho dato, no, di questo Gesù intelligenza artificiale che hanno creato in Svizzera. Adesso abbiamo a che fare pure con un altro Gesù, il Gesù intelligenza artificiale. E praticamente viene consultato, gli chiedono consigli e lui risponde, e insomma, adesso abbiamo pure quest'altro Gesù. Ma lo notate, appunto, che cosa sta succedendo? Vi rendete conto quanto il mondo odi Gesù Cristo, il figlio di Dio, e di conseguenza odia anche noi, che siamo suoi discepoli? Ma tornando appunto al discorso sull'omosessualità, che oramai tante chiese approvano, cioè per arrivare a definire o a ipotizzare che Gesù fosse gay sulla base di questi versetti, ma vuol dire che questi sono proprio figli del diavolo. Sono proprio figli del diavolo. Ma come si fa? Ma chi ha lo Spirito di Dio, che è lo Spirito della verità, non può arrivare a questa conclusione leggendo questi versetti scritti in Giovanni. Non può, è impossibile, proprio perché è lo spirito della verità. Però c'è anche lo spirito di menzogna. Ed è quello che hanno appunto i figli del diavolo, che abbondano, guardate, i figli del diavolo abbondano nelle denominazioni evangeliche. Io lo continuo a dire questo. Ci sono veramente molti figlioli del diavolo in seno alle denominazioni evangeliche. Ecco perché è di fondamentale importanza predicare il ravvedimento, l'Evangelo, per far sì che essi si manifestano, perché loro si manifestano, i figlioli del diavolo, quando sentono predicare il ravvedimento e l'Evangelo. Quindi la comunità LGBT ha creato un Gesù gay e praticamente per sostenere che Gesù fosse gay, ecco che usano questi versetti biblici. Ora, chi si leverà in favore della verità contro la menzogna? Chi? Ma chi si leva oggi in favore della verità contro tutte queste menzogne spudorate che vengono dette pubblicamente, dico pubblicamente, contro Gesù? Sono ben pochi oggi quelli veramente che levano la loro voce contro queste cose storte e perverse che vengono dette contro Gesù. Perché? Perché sono pochi quelli che sono discepoli di Gesù, che lo amano, che lo temono, che lo servono. Molti si definiscono cristiani, ma non hanno nulla di cristiano se non il nome. Ma di fatto sono dei pagani che non conoscono il Dio. Ah, fratello, noi non facciamo polemica. Voi non fate polemica quando non vi interessa fare polemica, ma quando ci sono di mezzo i vostri interessi, è come se la fate la polemica, razza di vipere. Vi conosco, siete dei bugiardi e dei calunniatori. A voi non interessa fare polemica quando la polemica implica farsi odiare dal mondo, farsi etichettare dal mondo come fanatici e così via. Ma quando toccano i vostri interessi denominazionali diventate delle belve. Fate comunicati di ogni genere, andate a smuovere tutti i politici che conoscete, senatori, deputati, andate a smuovere i servizi segreti italiani, israeliani, americani, figuratevi, ho studiato la storia del movimento pentecostale e so che avviene proprio così. Quando sono in gioco i loro interessi personali, che sono naturalmente interessi economici, questi che dicono non facciamo polemica, fanno veramente delle cose tremende. Ma quando viene calunniato Gesù, non fanno niente, zero, assoluto, silenzio. Poi ci sono quelli che appena confuti il loro amato, estimato pastore, che diciamo è ladro, bugiardo, imbroglione, subito ti attaccano. Ma tu ce l'hai con tutti. Attenzione, io ce l'ho con i ladri, con i bugiardi, con gli imbroglioni, non con i servi del Signore. Questi non sono servi del Signore, sono servi del loro ventre. Allora quando li confuti e li smaschi, vedi, fa, tu non ami i tuoi conservi. Conservi, ma chi? I servi di Mammona mica sono i miei conservi, io servo Dio. I miei conservi sono coloro che servono Dio, non quelli che servono Mammona, non i ladri, non gli imbroglioni, non i bugiardi, non i calunniatori, quelli non sono conservi. Perché non sono servi di Dio, quelli sono servi del diavolo. Ebbene, quando tu confuti il loro amato ladro, imbroglione, bugiardo, subito si scagliano contro di te. Non hai amore, non ti va mai bene niente, e così via. Quando confuti, quando parlano male di Gesù, quando calunniano Gesù, a questi non gli senti mai dire niente pubblicamente, mai. Ma come mai? Evidentemente è più importante il loro amato ladro, imbroglione, bugiardo e calunniatore che si spaccia per pastore di Gesù. È semplice il discorso, ma a questi, ma che gli interessa di Gesù? Ma che gli interessa a questi di Gesù? Non gli interessa proprio niente. A noi invece interessa, difendere il nome del Signore Gesù Cristo. Noi siamo discepoli del Signore Gesù Cristo e il mondo lo vede, lo riconosce, perché noi ci leviamo subito in favore del Signore Gesù quando Lui viene offeso, calunniato, deriso. Certo, non usiamo la spada materiale, usiamo la spada dello Spirito, ma comunque sia ci leviamo in sua difesa. Perché ci leviamo in difesa del Vangelo di Cristo Gesù. Però ai servi di Mammona, ai figli del diavolo, non interessa Gesù, o meglio, non interessa Gesù di Nazaret, il Cristo. A loro interessa il Gesù della massoneria, che è una via, una verità, una vita, una porta di salvezza. Allora interessa quel Gesù, ma quel Gesù è un altro Gesù, non è il vero Gesù che noi proclamiamo al mondo e alla Chiesa. E dunque vedete, fratelli nel Signore, la situazione quanto sia complessa, ingarbugliata, difficile, veramente cercasi veramente uomini timorati di Dio, coraggiosi, che si levano in favore della verità. Noi abbiamo questo desiderio e veramente stiamo veramente innalzando a Dio questa preghiera che susciti degli uomini coraggiosi, degli operai che predichino l'Evangelo di Cristo e che lo difendano, che sono pronti a confutare, smascherare i figlioli del diavolo, appunto quando costoro calunniano il nostro Signore Gesù Cristo. E quindi questa è la ragione per cui le denominazioni evangeliche sono piene di omosessuali, piene nel senso, diciamo, abbondano di omosessuali anche tra i cosiddetti pastori. Ormai è diventata una cosa normale essere omosessuali in tante chiese evangeliche, non fa più scandalo, non fa più scandalo. Ma lo sai che il pastore di quella chiesa evangelica è omosessuale? Vabbè, ti dico. Ognuno del corpo suo fa quello che vuole, ti rispondono così. Vuol dire che ha trovato il suo amore, l'anima gemella l'ha trovata in un altro uomo. Cioè, questi ragionano così, Questa è gente proprio perversa, perversa al massimo. Cioè, ormai giustificano proprio ciò che è in abominio a Dio. Ma noi vogliamo ricordare che l'omosessualità è in abominio a Dio, anche ricordando il giudizio che Dio, riversò su Sodoma e Gomorra. Eh sì, proprio quello che non vuole che gli sia ricordato, la comunità LGBT, non vuole che gli sia ricordato quello che Dio fece a Sodoma e Gomorra, e noi allora glielo ricordiamo, perché di questa comunità LGBT fanno parte anche tanti evangelici. È scritto in secondo Pietro che se Dio riducendo in cenere le città di Sodoma e Gomorra le condannò alla distruzione perché servissero d'esempio a quelli che in avvenire vivrebbero impiamente, e se salvò il giusto Lot che era contristato dalla lasciva condotta degli scellerati, perché quel giusto che abitava fra loro, per quanto vedeva e udiva, si tormentava ogni giorno l'anima giusta a motivo delle loro inique opere. Notate come la scrittura dice che Dio ridusse in cenere le città di Sodoma e Gomorra, le condannò alla distruzione, questo affinché servissero d'esempio a quelli che in avvenire vivrebbero empiamente, e tra quelli che appunto in avvenire vivrebbero empiamente ci sono pure i sodomiti. Quindi, sodomiti evangelici, siete avvertiti, Siete avvertiti, voi avete l'ira di Dio sul vostro capo. Se non vi ravvedete, non vi convertite dalle vostre vie malvagie, se non credete nell'Evangelo, rimarrete schiavi appunto del peccato, e quando morirete ve ne andrete nelle fiamme dell'inferno. In Giuda, nell'Epistola di Giuda, è scritto così: nello stesso modo Sodoma e Gomorra e le città circonvicine, essendosi abbandonate alla fornicazione nella stessa maniera di costoro ed essendo andate dietro ai vizi contro natura, sono poste come un esempio, portando la pena d'un fuoco eterno. Voi sapete infatti che il Dio fece scendere dal cielo fuoco e zolfo, che appunto su Sodoma e Gomorra e le città circonvicine, e ridusse quelle città in cenere. Infatti non esistono reperti archeologici di queste città, in cenere le ha ridotte. Pensate quanto fosse adirato il Dio contro quelle città dove appunto venivano compiuti anche atti contro natura. E quindi, vedete, allora Pietro le ha dette queste cose, Giuda le ha dette queste cose, e Pietro e Giuda erano sotto la grazia, e hanno voluto ricordare il giudizio di Dio contro Sodoma e Gomorra. Quindi anche noi vogliamo ricordare il giudizio di Dio contro queste città empie, affinché i sodomiti, ma naturalmente anche i fornicatori, perché diciamo che veniva compiuta anche fornicazione lì, non si illudino, devono sapere che l'ira di Dio è sopra di loro. Ma tu li spaventi in questa maniera? Ebbene sì, li spavento, lo confesso. Io voglio che i sodomiti siano spaventati, siano presi dal terrore di Dio, siano contristati al ravvedimento e quindi si ravvedano, si convertano dalle loro vie malvagie e credano nell'Evangelo per essere affrancati dal peccato. A proposito, l'omosessualità non è una malattia, perché anche questo adesso si sente in seno a tante chiese. No, l'omosessualità è un peccato, va definito come lo definisce la Sacra Scrittura. Quindi dal peccato si viene affrancati, non è una malattia da cui bisogna guarire, no, è un peccato da cui bisogna essere liberati, perché chi commette il peccato è schiavo del peccato. Quindi se è schiavo del peccato, il sodomita, come anche il fornicatore, il ladro e così via, deve essere, ha bisogno di essere affrancato, liberato dal peccato e diventare libero. E la libertà, il peccatore, la ottiene, la libertà dal peccato, la ottiene solamente nel momento in cui crede nell'Evangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, perché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Ecco perché annunziamo il ravvedimento e l'Evangelo anche ai sodomiti, perché il nostro desiderio, la nostra preghiera è che essi siano salvati. Sì, anche i sodomiti evangelici che si definiscono evangelici, dato che sono dei peccatori, il nostro desiderio, la nostra preghiera a Dio è che siano salvati. Ecco perché gli annunzio il ravvedimento è l'Evangelo. So bene che loro non gradiscono il mio messaggio, ma l'amore di Cristo mi costringe. Come diceva il nostro caro fratello Paolo ai santi della Galazia, se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. Io non cerco di farmi amici i peccatori. Io voglio che i peccatori siano riconciliati con Dio, ma affinché siano riconciliati con Dio, e quindi affinché diventino amici di Dio, si devono ravvedere, convertire e credere nell'Evangelo. Certo, fino a che questo non avverrà, io sarò un loro nemico, mi guarderanno come un terrorista o qualcosa del genere, uno che non ha amore, ma a me non interessa, io voglio piacere a colui che mi ha chiamato a predicare l'Evangelo, cioè a Dio, e quindi sono pronto a sopportare le ingiurie, gli oltraggi, le offese, i vituperi, appunto, di coloro che non gradiscono questo messaggio, che è un messaggio verace e fedele. Quindi, fratelli nel Signore, nessuno vi inganni con parole seducenti. L'omosessualità è peccato, anzi è cosa abominevole anche oggi, 20. Novembre 2024, ne è passato di tempo, da Sodoma e Gomorra, ne è passato di tempo da quando fu promulgata la legge di Mosè, ne è passato tempo, però l'omosessualità continua a rimanere peccato agli occhi di Dio, non importa quello che dice il mondo. Non importa quello che dicono le autorità, che appunto approvano, quelle autorità che approvano l'omosessualità, non importa quello che dicono i sodomiti evangelici tra virgolette, naturalmente, superfluo che ve lo dica, l'omosessualità è peccato. La Bibbia non approva l'omosessualità, ma la condanna. Quindi che si continui a condannare l'omosessualità, come naturalmente anche tutti gli altri peccati, che si tuoni anche contro l'omosessualità, perché bisogna farlo affinché i peccatori non si illudano. Capite? Perché tutti questi che dicono queste cose piacevoli e false ai sodomiti li stanno ingannando, li stanno aiutando ad andare in perdizione. Noi non vogliamo aiutare proprio nessun peccatore ad andare in perdizione, ma nella maniera più assoluta. E quindi diciamo chiaramente le cose come stanno. Quindi rimanete saldi nella verità. Non vi fate trascinare dagli scellerati che appunto presentano un altro Gesù, il Gesù gay. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.